Non voglio alzarmi, è domenica. Voglio pensare solo a te. A te che dormi su una nuvola. A te con me e a me con te. In fondo è una giornata stupida. Di alternative non ce n'è. Quello che c'è è una noia umida in questa stanza senza te. Vorrei dormire ma è impossibile. Ma ammazza il caldo delle tre. Mi vesto, esco come un missile. È vuota la città, è vuota come me. Domenica d'estate, ho freddo senza te. Il sole picchia come un pugile, ma nel mio cuore nevica. Potrei buttarmi dentro un cinema, ma di vedere un porno non mi va. Tengono chiuse anche le chiese qua, in questo cesso di città. Però dal cielo comincia a scendere la sera, sulle tovaglie di qualche ristorante. Possono vedere già le stelle mentre si accendono qua e là. Non voglio andare a casa, è domenica. Voglio pensare solo a te che dormi su una nuvola, a te con me e a me con te. Domenica d'estate, ho freddo senza te. Le stelle ci sono tutte ma nel mio cuore nevica. Oh, oh. Domenica d'estate no. Lontani come statue, no, perché tra poco passa l'autobus, fa un'altra corsa e l'ultima.